Che se io fossi Bruto, e Bruto Antonio, qui ora ci sarebbe un Antonio che squasserebbe i vostri spiriti. Mi stupisco di parlare per incantarvi, mentre vorrei liberarvi per confondervi. Mentre che l'uno spirito questo disse, l'altro piangeva. Letture di Radio 24. Nell'agosto 2007, Don Pierino Gelmini, fondatore della comunità Incontro, viene iscritto nel registro degli indagati della Procura di Terni, in quanto sospettato di molestie nei confronti di minori. Nell'inchiesta vengono coinvolti, con l'accusa di favoreggiamento, anche due stretti collaboratori di Gelmini, Pierluigi La Rocca e Giampaolo Nicolasi, oltre alla signora Patrizia Guarino, madre di uno degli accusatori. Nell'udienza dello scorso 15 luglio, il giudice dell'udienza preliminare di Terni, Pierluigi Panariello, si era pronunciato sulla possibilità di utilizzare le intercettazioni telefoniche che incastrerebbero il sacerdote. Intercettazioni che tuttavia non possono essere utilizzate per gli altri tre coimputati, in quanto la pena richiesta nei loro confronti è inferiore ai 5 anni. L'udienza viene rinviata al prossimo 9 ottobre. Intanto, sulle pagine della stampa, vengono pubblicate le trascrizioni di alcune di queste telefonate. Nella primavera dell'anno scorso, indagato per abusi sessuali nei confronti di alcuni ragazzi che ha ospitato nella comunità Incontro per Tossicodipendenti, Don Pierino Gelmini è molto loquace. Preoccupato per l'inchiesta e ignaro di essere intercettato dalla procura, attiva una serie di contatti per organizzare una strategia difensiva. Parla con magistrati, con uomini delle forze dell'ordine, con avvocati. Ne ricava suggerimenti e si sfoga. Ce l'ha con il PM Barbara Mazzullo e con il questore di Terni, ma parla anche con alcuni ragazzi che lo hanno accusato. Promette e dà soldi. Si impegna a trovar loro lavoro. Cesare Martellino è l'ex procuratore di Terni. Prima di essere nominato dal secondo governo Berlusconi, rappresentante italiano a Eurojust, la superprocura europea con sede a L'Aia, aveva archiviato una denuncia contro Don Gelmini per abusi sessuali. La stessa che, ripresa dal PM Mazzullo, produce la richiesta di rinvio a giudizio. A fine aprile 2007 Martellino è in Olanda. Contattato e raggiunto da un collaboratore della comunità Incontro, che lo informa sulle novità dell'inchiesta, conversa a telefono con Don Gelmini. I due parlano male del PM che conduce l'indagine, poi, meglio, dell'allora procuratore di Terni, Carlo Maria Scipio, anch'egli titolare del fascicolo e considerato più disponibile, ma impotente per la ruvidezza della collega. Infine, Martellino suggerisce a Don Gelmini la linea difensiva. Utilizzare come precedente l'inchiesta da lui archiviata qualche anno prima. Pronto, Don? Ciao! Come mai riescono queste cose dopo tanto tempo? Ma sì, però sono state... è stata la tua amica, quella lì. Il fatto che la Manzullo, tu lo sai, sì. È una persona, a parte che è di estrema sinistra. Te l'ho detto, mi ha mandato l'avviso di garanzia, no? È roba da pazzi. È che bisogna parlare con il capo. Ma lui, credo che lui vorrebbe fare... ma è un po' condizionato. Ecco, quella non è facilissimo. Io pure ti dico la verità, non avevo questo tipo di rapporti difficili con quella. Comunque vediamo adesso, cosa devo fare? Bisogna tirar fuori pure quella precedente, bisogna dirlo all'avvocato, capito? È opportuno tirare fuori il precedente, capito? L'avvocato deve tirarla assolutamente fuori, mo vediamo un po'. È lo stesso Martellino a consigliare a Don Gelmini quale avvocato scegliere per difendersi. Poi il discorso torna sul PM Mazzullo. Mi preoccupa. Quella signora mi preoccupa molto perché è un tipo, un tipaccio che è pure difficilmente controllabile, capito? È ignorante, non c'ha voglia di fare nulla, è ignorante e vuole fare sempre male. Perché è pure cattiva, hai capito? Sì. Poi ti faccio sapere. Don Gelmini sembra sempre molto attento alle vicende che riguardano la procura di Terni. A Pasqua manda al procuratore capo gli auguri tramite un amico comune. Non dimenticarti di fare gli auguri a Scipio. Con il suo avvocato discute della nomina del nuovo procuratore di Terni. Poi scaglia la sua ira anche contro i poliziotti che conducono le indagini su di lui. Tutti infami, dice in una telefonata, a partire dal questore Gianfranco Urti. Non si poteva trovare un individuo peggiore. Don Gelmini parla anche con un poliziotto della presidenza del consiglio che gli promette di andarlo a trovare presto per parlare con il questore che si è comportato male. L'attivismo di Don Gelmini si concentra parallelamente sui ragazzi che lo accusano di molestie. Tra questi, Giovanni Prezioso. Dopo la sua deposizione, in cui ha verbalizzato i racconti delle molestie subite, inizia un frenetico intreccio di contatti. Protagonisti, lo stesso Prezioso, la madre Patrizia, Don Gelmini e i suoi collaboratori. Secondo gli inquirenti, è la madre a gestire i contatti per trattare la ritrattazione di suo figlio, che puntualmente avviene con una lettera. Per l'accusa, la lettera è stata scritta dal ragazzo sotto dettatura di Pierluigi La Rocca, braccio destro di Don Gelmini, che gli spiega anche come comportarsi e cosa dire al PM. Al telefono, La Rocca e Don Gelmini parlano del viaggio di La Rocca a casa del ragazzo per fargli scrivere la lettera, poi delle deposizioni del ragazzo, infine dei soldi. Io gli ho mandato 500 euro sapendo che comunque anche tu gli hai dato un proficuo aiuto. E questi soldi già sono finiti? E dice no, non possiamo andare sopra perché non ci sta una lira, ho detto. Ma senza dirle che sapevo del tuo aiuto economico, vabbè, ti mando qualcosa, qual è il problema? Gli ho mandato 500 euro, Don Pierì, di tasca mia, purché insomma questa faccenda si vada a chiudere. Per gli investigatori la ritrattazione del ragazzo non è genuina, perché è incentivata con 4 dazioni di denaro e con la promessa di un lavoro da parte di Don Gelmini. Secondo la difesa, Don Gelmini è abituato ad aiutare economicamente i ragazzi che sono passati dalla comunità. Dunque, la prima dazione per gli inquirenti di importo consistente è quella di Don Gelmini a cui si accenna nella telefonata. La seconda è quella di La Rocca, 500 euro con un vaglia online alla madre di Giovanna. 2 SMS confermano il pagamento. La terza tranche viene consegnata direttamente da Don Gelmini a Giovanni, che va a trovarlo in comunità nel giorno in cui è stato convocato dagli inquirenti. In una successiva conversazione con la madre, Don Gelmini si assicura che il denaro sia arrivato a destinazione. Io ho visto tuo figlio l'altro giorno, gli ho dato una cosa da dare a te. Te l'ha data? Sì, grazie Don. La conversazione prosegue. Si parla degli sviluppi dell'inchiesta. La donna sarà presto sentita dal PM. Allora ti ringrazio per l'amore che hai per me. Tanto, Don. Tanto. Se puoi, fai un salto e vieni a trovarmi un giorno. Poi ti rimborserò io il viaggio. Don Gelmini promette: mi darò da fare per trovare a Giovanni un tipo di lavoro migliore e diverso. In realtà, madre e figlio speravano di ottenere di più. Scrivono gli inquirenti che la donna contattava il figlio in viaggio e, percependo dal tono della voce una certa tristezza, gli chiedeva se derivasse dal fatto che forse Don Pierino non gli avesse dato niente. E lui rispondeva: quasi niente. A quanto emerge dalla conversazione, la dazione sarebbe consistita in soli 200 euro. La polizia ritiene che la cifra sia superiore perché il ragazzo va a festeggiare a Rimini con gli amici in un hotel a 4 stelle. In ogni caso, la donna non si accontenta. Voleva andare di persona da Don Gelmini e alza la posta. Parte alla volta della comunità di Don Gelmini, spiegando a una cugina che va a farsi dare l'assegno. Ritorna con la quarta dazione, 400 euro, e festeggia portando il fidanzato a cena fuori. In realtà anche questa volta si aspettava di più dal Don, ma, spiega in una telefonata, la causa è ancora in corso e mica è fesso. Avete ascoltato la lettura dell'articolo di Giuseppe Salvaggiulo, incastrato da poliziotti infami e PM Rossi, dalla stampa del 14 settembre. Letture di Radio 24. Dalle pagine di Repubblica, Alberto Arbasino interviene in merito alle polemiche sollevate dal progetto di costruire un parcheggio sotto il Colle Pincio a Roma. Sventare gli sventramenti fu per decenni il motto di tanti architetti post-fascisti, per cui andava demolita addirittura la piazza Augusto Imperatore, benché non bisognosa di interventi urgenti. Solo Cocci e Coccetti minimizzavano invece i modernizzatori, per cui in ogni metropoli storica e contemporanea si demolisce e scava per venire incontro alle esigenze del progresso, senza lasciarsi paralizzare da pseudo-ostacoli di non grande valore culturale. Per decenni poi, con andamento variabile, i giornali più progressisti denunciavano le potenti lobbies di costruttori che infettavano la capitale e il Campidoglio con elargizioni elettorali e individuali e scambi di favori enormi fra il catasto e la casta. L'affare Pincio è apparso presto spiacevole e inutile, perché sfasciare un sito così illustre e perfetto solo per guadagnare qualche centinaio di posti auto diventa ridicolo in una città dove circola 1 milione di macchine. Forse converrebbe scavare sotto il letto del Tevere, l'unico sottosuolo romano ove forse non si troverebbero domus o anfore. È stato fatto sotto la Manica, ci sarebbero tanti costi e problemi in più. La pedonalità del Tridente sembra un vano pretesto, quando proprio le rampe del Pincio sono diventate un sito di rimorchio minorenne con rocca volumi competitivi, anche per mignotte venute da lontano. Ma lì basterebbero un paio di transenne e di vigili, senza altre iniziative. E magari spendere i fondi per tenere l'intera villa borghese in condizioni meno schifose, semmai. Ma del resto, a detta di taluni residenti, l'intera piazza del popolo era più carina quando era piena di automobili ferme, multicolori e luccicanti sotto l'obelisco. Certamente meglio che adesso, volgarmente sfruttata come contenitore di enormi e ripugnanti impalcature e ponteggi incessantemente montati e smantellati e martellati per gazebi pubblicitari da stadio o da circo, per eventi fragorosissimi e assordantissimi, per bambini e venditori di schifezze senza alcun nesso o rispetto per Valadier e i suoi spazi urbani e civici. Tanti anni fa, pure, quando dalle periferie si proclamava «riprendiamoci la città», dopo le lunghe paure stradali degli anni di piombo, e centinaia di giovani partivano di lontano per sedersi sulla scalinata in Piazza di Spagna e lì fare i cori di montagna, invano si richiedeva ai responsabili comunali di abbellire le principali piazze periferiche di scalinate analoghe in facsimile, visto il successo del prototipo. Ovviamente ad opera delle maestranze bravissime e disoccupate di Cinecittà. Ma che multipli, sentenziavano gli assessori. E anche Fellini, credo. Mentre, come luoghi di socializzazione e coinvolgimento, sarebbero costati pochissimo, oltre a introdurre un postmoderno laico e non clericale nelle borgate pasoliniane non più di teenagers zozzetti. I sottosuoli urbani, in Italia e in tutta Europa, sono pieni di muretti romani in serie che vengono presto chiamati domus, così come ogni sartoria è ormai una maison e dunque incute riguardi. Per esempio a Vienna, scavando davanti al Palazzo Imperiale, si sono rinvenuti dei mattoni con calcina che hanno subito causato la pedonalità intorno a un catino archeologico che solo un certo garbo civico e turistico evita di usare come un posacicche. Qualcosa di analogo deve essere capitato sotto l'Auditorium Romano, dove al rinvenimento dei muretti antichi si imputa l'innalzamento del progetto originario, sacrificando le scale mobili, ormai costanti in ogni multisala per ragazzini, e il foyer bar come luogo d'aggregazione per anziani, che devono restare seduti se non sono disposti ai 100 scalini giù e su dalla biglietteria. I critici architettonici del ventennio fascista, pure approvando i molti edifici nazionalisti in mattoni e travertino dei loro invidiati maestri, giustamente non perdonano gli scatafasci causati dalla via dell'impero. Così come sono inescusabili e inespiabili le demolizioni sabaude intorno all'atroce Vittoriano, benché imbellettato e vezzeggiato adesso come orribile attrazione turistica. Ma ancora più orribile risulta adesso la biasimata teca della Rapacis, perché rivisita con un brutto senno del poi i travertini già intollerabili ai tempi del Duce e del film Peplum, della romanità a Cinecittà, come già a Los Angeles, dove arrivando al Getty Museum si esclama «Fabiola, Spartacus, Scalera Film, torna, Alessandro Blasetti, tutto è perdonato». Perché poi bastava mettere a norma la teca precedente, discreta e vetrata e restaurata dai Rotari, così come si conservano gasometri e pastifici e rimesse tranviarie non griffate di quella stessa epoca. Invece di costruire muraglie presuntuose e fontanelle massicce che cancellano ogni vista sulle due celebri chiese di qua e sul Tevere di là, per cui, avendo qui le dichiarazioni di architetti illustri contro la piazza Augusto Imperatore nel suo complesso e assetto precedente, bisognerebbe sentire chissà quali esperti. Abbattere le arroganti ali laterali, che servono soprattutto a mostre e convegni clientelari di livello bassissimo? Affidare ai più lodati graffitisti della scena romana la decorazione di quegli insopportabili muri bianchi del Duce? Dai treni tiburtini e tuscolani si vedono interessanti specimens. E se comunque si rammentano le ormai attempate stizze degli specialisti contro il resto della medesima piazza, c'è davvero da ridere. Vecchi cucù. Avete ascoltato la lettura dell'articolo di Alberto Arbasino Sotto al Pincio i travagli di Roma, da Repubblica del 14 settembre. Sul giornale di giovedì scorso sono state pubblicate alcune delle lettere che fanno parte del carteggio intercorso tra Oriana Fallaci e Monsignor Rino Fisichella nel periodo 2005-2007. Di questa corrispondenza si conosceva l'esistenza da tempo, ma il vescovo aveva sempre voluto mantenerla segreta per evitare che venisse strumentalizzata. Oggi invece acconsente a diffonderla, nella convinzione che le lettere offriranno un ritratto positivo di Oriana. In una lettera scritta a New York nel giugno 2005, Oriana Fallaci esprime a Monsignor Fisichella il desiderio di incontrare il Papa. Monsignore, lei mi ha commosso. Naturalmente sapevo bene chi fosse il rettore della Lateranense, il vescovo che ragiona al di là degli schemi e senza curarsi dei politically correct. Ma a leggere la sua intervista al Corriere ho rischiato davvero la lacrimina. Io che non piango mai, e mi sono sentita meno sola, come quando leggo uno scrittore che si chiama Joseph Ratzinger. Il guaio è che sono molto malata. Ormai l'alieno mi divora perfino gli occhi. Medea e i suoi figli ho dovuto dettarlo, come Milton che da cieco dettava, mi si perdoni il paragone, la storia d'Inghilterra e il paradiso perduto. E questo mi confina a New York, prigioniera delle chemioterapie e delle radioterapie. Non posso allontanarmi. Ci proverò lo stesso, prima o poi. Tanto più che vorrei parlarle anche dell'importantissima cosa di cui suppongo sia al corrente. Vale a dire il mio desiderio di incontrare, zitta zitta e lontano da occhi indiscreti, Sua Santità. Sa, è un desiderio che mi accompagna da quando incominciai a leggere i suoi libri e che non cercai di esaudire subito perché lavoravo giorno e notte a La forza della ragione, poi perché l'alieno si scatenò e non stavo nemmeno in piedi, dopo perché stavo completando la trilogia con l'intervista a me stessa e l'Apocalisse. Infatti, quando venne eletto Papa, feci sì capriole di gioia, ma nel medesimo tempo pensai, oddio, ora non potrò più vederlo, e con un sospirone avvilito mi rassegnai. La ringrazio di nuovo. Ripetendo che mi piacerebbe conoscere anche lei, la saluto caramente, Oriana Fallaci. Questa era la lettera scritta da Oriana Fallaci a Monsignor Fisichella nel giugno 2005. Ed ecco la replica del Vescovo. Dear Oriana, Accattoli mi aveva annunciato la sua intenzione di scrivermi, ma quando ho aperto la lettera le assicuro che l'emozione è stata grande. L'intervista che ho rilasciato al Corriere era sincera e manifestava solo per sommi capi il mio pensiero e la mia ammirazione nei suoi confronti. Per il coraggio che lei esprime, l'intelligenza che ha accompagnato da sempre i suoi scritti e la vista polemica che mi affascina non poco nei suoi ultimi libri, lei merita molto di più dell'intervista del rettore del Laterano. Lei è una voce preziosa, fuori dal coro degli Yes Men, e con un'autorevolezza che fa onore alla sua professionalità. Non so se posso permettermi, ma le chiedo di lottare contro l'alieno. Non lo scriva neppure con la maiuscola, non lo merita. Sì, è davvero un alieno, e lei lo chiama con il giusto nome. Non appartiene alla nostra vita, soprattutto quando la ragione sa sconfinare per spazi illimitati, e lui obbliga a verificare la debolezza del proprio corpo. Ogni volta che mi affaccio su Piazza San Giovanni vedo dinanzi a me l'obelisco egizio. Quasi 4.000 anni di storia. Non riesco a comprendere fino in fondo perché un pezzo di pietra fatto dall'uomo possa superare il tempo, mentre io devo ripetere le parole del Salmo: gli anni della mia vita sono 70 e 80 per i più forti. Combatta anche con la debolezza fisica, perché quando sono debole, allora sono forte. Non lo chiedo solo io. Abbiamo bisogno di lei, perché non appaia che l'identità del nostro paese e la storia dell'Europa sia una cosa da cattolici, mentre è una questione ben più universale. Si tratta di responsabilità che abbiamo per le nuove generazioni, nonostante sembri che solo a pochi interessa far parte viva di un processo di trasmissione che conserva cultura e crea nuove forme di pensiero coerenti con il nostro passato. La sua trilogia era già tra i miei libri. Conserverò il suo cofanetto con gelosia, come il dono di un'amicizia che è giunta improvvisa, inaspettata e per questo ancora più carica di gratuità. Gioisco nel sentire che vorrebbe incontrare il Santo Padre. Le assicuro che oggi stesso mi prodigherò perché sia fattibile un suo incontro. Lei potrà toccare con mano l'amabilità e l'acutezza di Ratzinger e lui potrà sperimentare il coraggio di una donna libera e combattiva che crede nella forza della ragione. Questa era una lettera scritta da Monsignor Rino Fisichella a Oriana Fallaci nel 2005, pubblicata sulle pagine de Il Giornale del 18 settembre 2008.